Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il giorno dopo, imbarcatomi sull'aereo con destinazione Vancouver, il mio primo pensiero fu: bene, mi aspettano 9 ore di volo senza poter parlare con nessuno. Mi annoierò a morte. E in quello stesso istante sentii: Tony, qua che sei un posto libero per mettere il tocapeo. Ciao, io sono Marco Macuran, vivo a Vicenza, ho 44 anni, sono un commerciale presso un'azienda che vende prodotti chimici alle concerie, ho un bambino di 5 anni, quasi 6, e io sono qui. Taormina, domenica 6 maggio 1786. Chi si collochi nel punto più alto, occupato un tempo dagli spettatori, non può fare a meno di confessare che forse mai il pubblico di un teatro ha avuto innanzi a sé uno spettacolo simile. A destra, sopra rupi elevate, sorgono dei fortilizi. Laggiù, in basso, la città. Benché tutte queste siano costruzioni moderne, ne sorgevano di simili anche nel tempo antico e allo stesso posto. Lo sguardo abbraccia inoltre tutta la lunga schiena montuosa dell'Etna. A sinistra, la spiaggia fino a Catania, anzi fino a Siracusa. L'enorme vulcano fumante conchiude il quadro sterminato, ma senza crudezza, perché i vapori dell'atmosfera lo fanno apparire più lontano e più grazioso che non sia in realtà. Se poi da questo spettacolo si volge l'occhio ai corridoi costruiti alle spalle degli spettatori, ecco, a sinistra, tutte le pareti della roccia. E fra queste e il mare, la via che serpeggia fino a Messina. E gruppi e ammassi di scogli nello stesso mare e la costa della Calabria nell'ultimo, fino in fondo, che solo spiando attentamente si discerne fra le nubi che si innalzano dolcemente. Siamo discesi lungo il teatro, ci siamo fermati fra le sue rovine, quelle che potrebbero tentare un abile architetto a fissare sulla carta almeno il suo talento di restauratore. E infine ci siamo provati ad aprirci un sentiero fra gli orti fino alla città. Ma questa volta abbiamo sperimentato quale baluardo impenetrabile sia una siepe di fichi d'India, piantati l'uno accanto all'altro. Si vede, bensì, attraverso il groviglio delle foglie, si crede di potervi anche penetrare, ma le dure spine all'orlo di quelle sono ostacoli ben convincenti. A mettere il piede sopra uno di questi colossi di foglie, nella speranza che ci sopporti, va tutto in pezzi, e invece di passare oltre, al sicuro, si cade fra le braccia di un arbusto vicino. Riuscimmo finalmente a districarci anche da questo labirinto. In città prendemmo un boccone, ma non potemmo staccarci da questo luogo prima del tramonto. Osservare come questa regione in tutti i particolari interessante si sprofondava a poco nelle tenebre è stato spettacolo di una bellezza indicibile. Cominciamo sempre così queste puntate di questa settimana con le parole di Goethe che arriva in Italia e ne racconta la bellezza. Qui erano i primi di maggio, era a Taormina, era in Sicilia e si siede lì, su quel punto che se siete a Taormina, se siete in Sicilia potete andare a visitare anche adesso, al Teatro Greco di Taormina, un posto pazzesco e meraviglioso ancora adesso e che già nel 1786 affascinava questo scrittore. Buongiorno a tutti, Radio 24, Matteo Caccia, voi siete qui, raccontiamo storie tutti i giorni fino a venerdì, poi diamo spazio e lasciamo il microfono a Giampaolo Musumeci. Oggi, visto che parliamo di viaggi in questa settimana, oggi raccontiamo la storia di un viaggio, cioè più che di un viaggio, di un trasferimento vero e proprio, cioè quello che per alcuni è il viaggio, no? Poi ci sono diverse concezioni di viaggio, viaggiare non è viaggiare senza la meta, non è la meta ma è il viaggio, bla bla bla. Qua si parla proprio di un trasferimento aereo, anzi del primo trasferimento aereo. Cercate di ricordarvelo, il primo giorno in cui avete messo piede su un aereo, la prima volta, come eravate, quanti anni avevate, quanta paura avevate, cosa vi aspettavate, dove andavate. In questa storia Marco ci scrive nella mail: aveva 25 anni e stava andando in Canada perché lì aveva dei parenti ed è convinto di non trovare nessuno, e invece incontra non solo nessuno di italiano, ovviamente, invece non solo incontra degli italiani, ma incontra degli italiani che hanno molta voglia di farsi sentire. Questa è Radio 24, voi siete qui, Radio 24 è il profilo Facebook, voi siete qui, R24 quello Twitter, Matteo Caccia è semplicemente il mio profilo Twitter. Immaginate di essere su un aereo, siete convinti di essere gli unici italiani, vi girate e vedete degli uomini con un cappello e una penna nera. Partire per un viaggio, specialmente se è il tuo primo viaggio in aereo ed hai appena 19 anni, ti fa girare la testa per le infinite sensazioni che provi. Eccitazione per l'avventura, il mistero, onnipotenza. Sto andando dall'altra parte del mondo da solo. Ma anche indipendenza, la sensazione che stai completando la tua maturità. Insomma, una prova del 9 per far vedere che senza l'aiuto di nessuno puoi arrivare ovunque. Per me poi era ancora più un incognito quel viaggio a Vancouver. È vero che avrei trovato dei parenti ad aspettarmi e ad ospitarmi, ma il viaggio, il viaggio da solo era proprio figo. Andavo a Vancouver per fare la mia prima vera vacanza da solo, completamente da solo, con nessun amico, con nessuno, avendo solo dei parenti che mi stavano aspettando lì per fare da base, diciamo, le mie vacanze. Partivo con la compagnia olandese KLM e quindi feci scalo ad Amsterdam, dove avrei soggiornato per una notte, dato che il volo per Vancouver era fissato per il giorno dopo. Già lì, non sapendo allora una sola parola d'inglese, ebbi le mie difficoltà nell'ordinare la cena presso l'hotel in cui mi trovavo e non avendo nessun altro cliente del ristorante seduto vicino a me per vedere quello che mangiava e quindi poter indicare al cameriere che mi sarebbe piaciuto avere lo stesso piatto, alla fine ordinai a caso dal menù. Ovviamente mi arrivò una bella zuppa di pesce, tra l'altro disgustosa. Il giorno dopo, imbarcatomi nel mio aereo con destinazione Vancouver, il mio primo pensiero fu: bene, mi aspettano 9 ore di volo senza poter parlare con nessuno. Mi annoierò a morte. E in quello stesso istante sentì: Tony, qua che c'è un posto libero per mettere il tuo cappello. Che tradotto significa: Tony, qua c'è un posto libero per mettere il tuo cappello. Immediatamente alzai la testa, dato che riconobbi il dialetto che si parla dalle mie parti, cioè Vicenza, e vidi due signori che stavano cercando di infilare il tipico cappello d'alpino con tanto di penna negli appositi scompartimenti sopra i sedili. Dopo pochissimi minuti fui circondato da una ventina di penne nere con relativi consorti che si sedettero più o meno vicino a me. Si trattava del coro degli alpini di Bassano che, scoprì dopo il mio arrivo in Canada, andavano a fare una piccola tournée assieme ad un coro locale. La sorte volle che due di loro, seduti proprio alle mie spalle, erano ospiti presso uno dei miei parenti di Vancouver. Neanche a dirlo, dopo appena mezz'ora dalla partenza, il coro cominciò la sua performance canora usando l'aereo come sala prova. Gli altri passeggeri, prima timidamente, poi sempre con più entusiasmo, diedero fervore al coro con continui applausi e urla di approvazione. Devo dire che il nostro coro degli alpini di Bassano è molto apprezzato a livello regionale e nazionale e è da sempre che conosco e apprezzo i loro canti, però non nascondo che dopo un'oretta ero un po' stanco e avevo bisogno di alzarmi e cercare un po' di silenzio, cosa non certamente facile da farsi a bordo di un aereo. Poi mi viene l'idea. Avevo visto che parecchie persone della business class si erano alzate dal loro posto ed erano venute nella classe di noi comuni mortali proprio ad ascoltare e ad applaudire il coro. Gli alpini hanno cantato per circa, credo, 4 ore più o meno. Hanno cantato Penna Nera, hanno cantato Il posto sul ponte di Bassano e altre canzoni di repertorio che adesso non ricordo tutte, ovviamente. Mi feci coraggio e, individuato un signore sulla mezza età particolarmente eccitato nell'aver avuto la piacevole possibilità di assistere ad un tale spettacolo, gli chiesi, sempre gesticolando ovviamente, se voleva sedersi al mio posto e se temporaneamente mi avesse ceduto il suo in business. Non so come, ma la cosa funzionò e io passai le successive 3 ore in business class, comodamente seduto e con un relativo dolce silenzio. Tutti si ricordano il loro primo volo in aereo. È un'esperienza talmente iniziatica che c'è sempre un prima e un dopo. Oggi probabilmente si vola talmente piccoli la prima volta che non ce lo si ricorda, ma la mia generazione spesso volava piuttosto avanti con l'età per la prima volta. Ammesso di non essere figli di diplomatici, intendo dire. La mia prima volta è stata una trasvolata oceanica. Ero da solo e per placare l'ansia ho fatto ricorso a metodi non proprio ortodossi. Alla fine l'aereo è decollato. Ho passato la prima ora aggrappato al sedile. Ho quasi staccato uno dei braccioli. Poi la hostess è passata col carrellino delle bevande. Le ho chiesto qualche cosa di alcolico e lei mi ha dato un Cuba Libre. Ora sono al quarto e devo dire che sto proprio bene. Mi guardo intorno per vedere le facce degli altri passeggeri. Anche loro non sembrano tranquilli. Secondo me hanno tutti paura di volare. È una paura abbastanza giustificata. Intendo dire, gli aerei cadono. In fondo non è naturale che l'uomo voli. Così come non è naturale che gli uccelli prendano il treno, ad esempio. Eppure tutti prendono l'aereo per fare prima. Tutti vogliono sempre fare prima. E forse hanno ragione, in fin dei conti, se devi andare in un posto meno ci metti meglio è. Anche se rischi la vita. Niente, mi sa che sono ubriaco. Il tipo accanto a me ogni tanto si volta e mi guarda con disprezzo. Devo avere un fiato da giocatore di carte. Alzo gli occhi e vedo un piccolo televisore che mostra una cartina del mondo con un piccolo aereo in mezzo che vola piano piano. «Ma quelli siamo noi?» chiedo urlando al mio vicino di posto. Lui annuisce un po' infastidito, poi torna a leggere il giornale. Che roba, ragazzi, siamo noi. Stiamo volando sull'oceano. Provo ad alzare piano piano la tendina del finestrino che avevo abbassato per paura poco fa. Ed è bellissimo. C'è un tramonto da levare il fiato. Il sole è una palla rossa che colora di rosa gli spumoni di nuvole. Ma chissà da quant'è che viaggiamo? Saranno 4 ore. Se siamo partiti alle 10:30 del mattino, com'è che c'è già il tramonto? Niente. Sono troppo ubriaco. Forse è meglio dormire. Cause he gets up in the morning, then he goes to work at 9, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so. Secondo me è esattamente, se non a Vancouver, in Canada, nella foto che ci ha mandato Marco e che trovate sul nostro sito, ovviamente, come tutti i giorni, voi siete qui Radio 24, è appoggiato, diciamo, languidamente ad un parapetto che credo sia su un molo, e quello che ha alle spalle è un lago o è il mare, o comunque non sembra proprio essere in Italia. Pronto Marco? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu come stai? Io alla grande. Dove ti trovi adesso, Marco? Io sono all'ufficio, adesso tra un po' vado a visitare un cliente. Perché? Ricordami cosa fai esattamente. Io sono un commerciale, vendo prodotti chimici per le concerie. Ma quindi te li porti dietro? Cosa? I prodotti chimici? No, no, assolutamente, li consegniamo dopo l'ordine, si spera di fare un ordine ogni volta. Ah, ok, cioè, una volta c'era arrivata la storia di un agente di commercio che trasportava prodotti chimici in macchina, però erano tanti anni fa e quasi viene stonato dai fumi di questo prodotto che ha nel bagagliaio della Panda, invece adesso tu viaggerai con delle lussuose auto con condizionate, climatizzate. Lussuose un po' grosso come parola, condizionate sì però. almeno quello. Scusami, nella foto che ci hai mandato e che ho raccontato sei in Canada, vero? Sì, sono in Canada, sono in una delle innumerevoli baie che si trovano lì a Vancouver, un posto meraviglioso tra l'altro. Il Canada, io non so se ci sei più tornato da quella volta del racconto, ma ultimamente saranno un paio d'anni che sento dire che il Canada è la nuova frontiera, cioè un sacco di gente, poi sono 4 o 5, però metti insieme 4 o 5 amici che dicono io ho un amico che è andato a vivere in Canada, io ho uno zio che è partito per il Canada, e pare che sia un posto di nuova frontiera. Guarda, ti dirò che i miei parenti, che poi sono parenti di mia madre, già quasi 40 anni fa erano emigrati lì a Vancouver. E quando ci sono stato io, ti parlo di 23-24 anni fa, mm-hmm. c'era una notevole migrazione da parte degli asiatici, perché lì si trovavano le nuove frontiere, diciamo, no, di opportunità di lavoro e okay. quant'altro. Devo dire che era un paese ed è un paese che, in cui la qualità della vita è alta. Penso al top, sì sì, assolutamente. Tu non ci hai mai pensato ad andare a viverci, Marco? Ma no, io forse sono uno dei pochi che mi trovo ancora bene in Italia. tu stai dalle parti tue, Vicenza? Io da Vicenza, sì. Ok, l'accento vicentino è proprio, non riesco a capirne bene le differenze, però è proprio una roba a sé rispetto al veneziano, figuriamoci, ma al veronese, al bellunese. Ma ti dirò di più, oltre alla differenza dell'accento tra una città e l'altra, tipo sì. Vicenza, Verona e Padova, c'è anche differenza da paese a paese. Ok, è una cosa abbastanza. Quelle che si definiscono proprio i campanili veri e propri. Sì, sì, esattamente, bravissimo. Però Marco, torniamo a questo racconto straordinario, perché io guarda, quando lo leggevo non ci volevo credere che c'è stato per 4 ore questi hanno cantato sì! sull'aereo. Nessuno si è lamentato. Assolutamente no, io non ho visto una persona che si sia lamentata. Probabilmente perché non c'erano bambini allora, magari. Ah beh, infatti, dovrebbero tutti svegli. E poi perché partendo da Amsterdam immagino ci fossero molti stranieri, quindi il fascino del coro alpino era altissimo. Assolutamente sì, ma veramente come ti ho scritto, le persone dalla business class che sono venute nell'economic class è stato qualcosa di strepitoso, era gente in piedi, ma veramente come fosse un concerto, una cosa che io poi, sai, abituato a sentirli spesso, perché insomma vivo da quelle parti e voglio dire, vedere tutta questa gente affascinata così, sì. Per me sembrava un po' strano. Ti sembrava strano, immagino. L'abitudine, sai, immagino. Ti porta... Immagino. Ecco, giusto giusto, ringrazio Paolino Corleoni che ha deciso di mandarci. Questo è proprio sul ponte di Bassano, perché tu lo citavi a un certo punto. Eh sì, sul ponte di Bassano, esattamente. Ma e facevano anche tutti i sospiri, tutte le pause? Sì, sì, assolutamente, ovviamente. Guarda, mancava solo la musica, poi per il resto era uguale. Ma poi la cosa incredibile. Invece tu te ne sei stato quelle belle 3 ore in business class con la poltrona comoda. È pazzesco, Matteo, devo dire, io ci ho tentato, sai quando dici, guarda, ci tento, poi se va, se no, amen, no. E questo qua sembrava non crederci che gli cedevo il posto per godersi, potersi ascoltare bene, comodamente seduto, un po' meno comodamente del business, però seduto ad ascoltare il coro. E io mi sono spapparazzato di là, insomma. Tu non hai mai cantato in un coro? Non hai mai... No, assolutamente no. Non hai seguito quindi gli alpini in quella... No, non ho seguito anche perché avrei distrutto le loro canzoni. E comunque io sono convinto che se fosse partito da Malpensa l'aereo dopo tipo un quarto d'ora, scusa, per piacere, dai, qua c'è gente che vuole riposare, Probabilmente... Guarda, io sono assolutamente d'accordo con te. No, guarda, 100%, perché noi italiani siamo molto particolari, no? Sì, e poi comunque la roba di casa tua, dopo un po'. Probabilmente se fosse stato, che so io, un coro Bhangra del Bangladesh che faceva cose particolari o roteavano in aereo, sarebbe stato più divertente. Marco, ti ringrazio molto per la storia, ti lascio andare dal tuo cliente a fare il tuo consegno, il tuo lavoro. Grazie ancora. Grazie a te, Matteo, e continua così, sei grande. Anche tu, ciao Marco. Ciao Matteo. Ciao, grazie. Ciao. Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano. E non fa una grinza, no? Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano. Ah, ok. noi ci daremo la mano, ok? Me la ricordavo bene allora. Io li sedavo, giuro, li ubriacavo, gli facevo portare tanta di quella grappa che dopo un po', perché quattro ore in volo sopra l'Oceano Atlantico sono tantissime. Un saluto a tutti gli alpini che rappresentati in questa redazione da Peter Bescapè, che spesso si presenta col suo cappello dell'alpino. A posto, Paolino. Grazie a te e grazie a tutti gli alpini all'ascolto. Visto che continuano ad arrivare messaggi, continuano insomma in questi giorni, non tutti oggi, in cui qualcuno ci chiede del live che abbiamo fatto lo scorso mese di giugno, insomma il 26 di giugno insieme a Mauro Ottolini, e ci chiedono se esisterà una sorta di ripresa possibile, di tour. Insomma, ci stiamo lavorando, ovviamente non per adesso che ad agosto ce ne andiamo in vacanza, ma per l'anno prossimo. Ci stiamo lavorando insieme a tutta la radio e speriamo di venirne a capo e magari di portarlo un pochettino più in giro, non dico tanto, però portarlo non so, fuori da Milano quantomeno, in modo che chi ha voglia di venire a vederlo e sentirlo se lo può godere. Intanto scaricatevi l'ebook, che è gratuito, e potete leggervi tutte le storie che volete, massimo 97, e scrivete le vostre storie, soprattutto un episodio che vi racconti, una storia che racconti qualcosa di voi. Voi siete qui, chiocciola radio24.it. Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Hina, grazie soprattutto a Marco. La storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa.